Con Serena Mazzuca del gruppo che gestisce la Casa dei Libri Senza Prezzo, che inaugura a Roma martedì 7 maggio 2019. Serena, ben trovata. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora, noi inauguriamo oggi la Casa dei Libri Senza Prezzo a Torpignattara, a via Urbino, via Ciro d'Urbino 2017. Inauguriamo questo spazio libreria dove sarà possibile prendere fino a 3 libri con un'offerta libera. Queste offerte verranno poi usate per spedire altri libri in realtà come centri di rifugiati politici, ospedali, scuole di italiano, associazioni, piccole biblioteche, scuole. E abbiamo spedito anche all'estero, abbiamo spedito già in Serbia, ad Haiti, in Burkina Faso e in Guatemala, e stiamo per spedire in Grecia a dei centri per rifugiati sulla via della Turchia. E stiamo inaugurando questa libreria anche grazie al contributo di un'associazione, Limone nel Verde, e siamo presenti anche a San Lorenzo con il nostro magazzino. Il nostro magazzino è situato presso il Cocomero, che è un'altra associazione di volontariato, e grazie a loro lì siamo presenti dal 2011, appunto con questo magazzino in cui si raccolgono svariate migliaia di libri che ci hanno donato, sia privati che associazioni. E oggi appunto dalle 6 saremo presenti a Torpignattara, anzi dalle 5, perché dalle 5 Muri Sicuri ci offrirà delle visite guidate per il quartiere di Torpignattara per scoprire la realtà in cui ci andremo a calare attraverso i vari murales che caratterizzano il quartiere. E poi sarà presente il nuovo coro popolare diretto dalla maestra Paola Gagliardo, con un repertorio appunto di musica popolare, e vari amici faranno letture, canzoni, insomma, per stare tutti insieme col piacere dei libri e della lettura, che secondo noi è il miglior modo per diffondere la cultura, è proprio quello di garantire a tutti di poter accedere alla cultura appunto senza prezzo, dando il valore ai libri, il valore che uno vuole e può dare a seconda delle proprie esigenze. Dopo questa giornata di inaugurazione avrà dei giorni di apertura normali come una normale libreria? Saremo aperti durante il pomeriggio, siamo volontari, quindi a seconda, ancora non abbiamo deciso proprio degli orari fissi, questi saranno di volta in volta deciso, però più o meno saremo aperti dalle 4 alle 8 durante la settimana. Se volete venirci a dare una mano, noi accettiamo l'aiuto di chiunque, perché insomma stare in mezzo ai libri è bello, e quindi insomma siamo aperti anche ad altre persone che si propongono. Ci racconti anche un po' dell'esperienza di questo gruppo di volontari? Sì, allora, Book Cycle in realtà nasce in Inghilterra nel 2007 tramite un ragazzo che praticamente facendo un giro in bici ha trovato un hangar pieno di libri abbandonati, e siccome aveva diversi amici che lavoravano nella cooperazione, ha pensato che sarebbe stato carino poter spedire questi libri in paesi come l'India e l'Africa, in cui appunto c'era l'agevolazione della lingua inglese. Una ragazza che è diventata poi la nostra presidente è andata lì a fare un'esperienza, ha fatto appunto volontariato presso questa associazione, e quando è tornata a Roma ha deciso di trasportare l'idea. Ha trovato appunto questo posto, questo ospitalità al Cocomero, e da lì con una piccola stanzetta veramente minuscola ha cominciato a raccogliere i libri, e un giorno andando al salone dell'editoria sociale ha incontrato quella che allora era alla dirigente del gruppo SPRAR in Italia, e aveva proposto appunto il progetto, e così ha iniziato a spedire i libri appunto agli SPRAR. Poi siamo cresciuti come realtà, si sono cominciati ad aggiungere i volontari, e tramite sia conoscenze dei volontari sia persone che ci hanno trovato abbiamo cominciato a spedire anche in altre realtà, come appunto dicevo prima, ospedali o scuole di italiano o realtà all'estero come il centro di cultura d'Haiti o la scuola in Burkina Faso. E noi al magazzino del Cocomero ci riuniamo il martedì, dalle 11:30 alle 6:30, ed è poi l'orario in cui è possibile venire a fare le donazioni dei libri. E lì il lavoro è un lavoro appunto di magazzino, dove i libri vengono smistati, catalogati non libro per libro, ma nelle loro categorie. Ci divertiamo anche tanto, siamo un gruppo più o meno di 10 persone. Da oggi in poi, oltre a questa attività, ci sarà quella appunto della libreria, che ci permetterà, di crescere e di fare sempre più donazioni. E questo, insomma, questa è la nostra realtà. Il nostro piccolo sogno era quello appunto di aprire una libreria. Oggi finalmente ci stiamo riuscendo, siamo molto soddisfatti e contenti, e speriamo che vada tutto bene, insomma. Ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Ok, certo. Allora, potete trovare tutte le informazioni sia sulle donazioni che sulle attività che facciamo, su come donare i libri e su che tipo di libri donare, sul sito www.bookcycle.it o sulla pagina Facebook Bookcycle, anche Instagram, che anche quello si chiama Bookcycle, sì, questi sono i riferimenti. Invece l'indirizzo della libreria è, come dicevo prima, via Ciro da Urbino 17 a Torpignattara, mentre quello del magazzino è via De Massi 77 a San Lorenzo. Benissimo. E allora ricordiamo Ok. l'inaugurazione di Bookcycle, la casa dei libri Sì, senza prezzo, a Roma, esatto. martedì 7 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Serena Mazzuca. Serena, un Grazie. abbraccio, in bocca al lupo, A te. risentirci presto. Grazie. Ciao Federico. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.